Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Massimo Vitali, autore del romanzo Se son rose, pubblicato da Fernandella. Un romanzo molto particolare, lo vedremo subito dalla trama. Partiamo innanzitutto dal protagonista. Chi è questo protagonista? Il protagonista si chiama Roversi ed è un uomo che è conosciuto nel romanzo soltanto con il cognome, quindi continuiamo a chiamarlo Roversi, che per diverse vicissitudini vive nel bagno delle donne di un cinema. Perché vive nel bagno delle donne di un cinema? Perché le diverse vicissitudini sono quelle che possono capitare a chiunque, come ad esempio venire licenziato dal lavoro e il giorno stesso andarlo a dire alla moglie ed essere lasciato dalla moglie e andarsi a confortare dal proprio miglior amico, e il miglior amico, purtroppo essendo una persona molto di età piccola, non lo riesce a confortare, allora lui va a rilassarsi in un cinema, e qui quando decide di andare in bagno purtroppo gli rimane la chiave incastrata e lui si arrende e rimane chiuso in questo bagno. E che cosa fa in questo bagno? Uno dice cosa può fare un uomo chiuso in bagno? In realtà può fare tante cose, perché questo romanzo sembra di quest'uomo che vive nel bagno, può sembrare un romanzo statico, invece è un romanzo, io lo ritengo un romanzo anche d'azione, perché è però quell'azione come quando corri però su un tapis roulant. Cioè? Nel senso che lui... Corri e resti fermo. Esatto, lui cosa succede? Succede che da quando si chiude dentro al bagno per fuggire dal mondo, diciamo così, è il mondo che alla fine lo va a trovare. Quindi c'è tutta una galleria di personaggi che si ritrovano a bussare alla sua porta, ma lui giustamente non aprirà nessuno, perché così è deciso e così è. Quindi, ricapitolando, quest'uomo ha dei problemi, va al cinema, rimane casualmente chiuso in questo bagno, inizia a meditare, possiamo dirlo. Sì, perché tutti gli hanno chiesto una pausa, di prendersi una pausa di riflessione, e allora lui alla fine si ritrova lì e dice: perché bisogna cambiare? Il destino mi ha dato questo, io mi rimango qui. Ecco, ci sono dei personaggi però, come dicevamo, che vanno a trovarlo. Che cosa gli dicono? Che cosa vogliono da lui? Ma in realtà niente, più che altro sono lui cosa vorrebbe da loro. Allora lui, adesso senza svelare troppo, perché essendo questo un libro giallo, non so se si era capito, anche se si chiama Se son rose, davanti alla sua porta sicuramente arriva una persona che chiama lui, ed è l'unica che chiama, ed è un fabbro che gli apre un varco sull'universo, perché gli apre una piccola porticina dove far entrare il cibo, altrimenti lui sarebbe spacciato, come dire. Invece tutte le altre persone lui purtroppo non le chiama, ma gli arrivano. Ora non posso fare anticipazioni, però... Però facciamo un esempio, chi è che arriva, per esempio? Arriva un cane che si chiama Giuseppe, come tutti gli altri protagonisti del libro. Si chiamano tutti Giuseppe? Sì, non ridere. E questo cane? E questo cane è un cane che gli porta una signora, perché essendo il bagno delle donne, lì intorno ci sono delle donne, gli porta questa signora perché questo cane non parla più, e allora glielo butta dentro senza che lui ovviamente può far niente, perché non può uscire, non può niente. E poi ci sono, come dice la quarta di copertina, i cultori dei film western. Ci sono delle signore anziane che non capiscono i film e glielo vedono, vengono a chiedere a lui, che lui però è chiuso dietro la porta e non le può vedere, quindi insomma c'è tutto... Insomma finisce per diventare un guru quasi, al quale si rivolgono. Il punto di riferimento della città, lui è finito lì per riflettere, ma non riesce a riflettere perché c'è troppa gente che transita. Poi ovviamente avrà anche lui i suoi momenti di riflessione, però finirei col però. Senti, ma come ti è venuta l'idea di chiudere un uomo in un bagno di un cinema? Ecco, l'idea è venuta abbastanza in modo semplice. Io per vivere, non so se si era capito, non faccio lo scrittore, io ho un altro lavoro, lavoro in una grande azienda, sperando che non sia nessuno all'ascolto, tanto in questo momento lo stanno lavorando, una grande azienda, e come tutte le grandi aziende, io ci lavoro da 14 anni, e come in tutte le grandi aziende c'è un bagno, e io sono 14 anni che vado in quel bagno. quel bagno dove c'è una finestra dove si vede fuori, dove in realtà c'è un albero, e io vedo questo albero in tutte le stagioni, autunno, primavera, estate, con le foglie, senza foglie, con i rami, e lo vedo tanto spesso, non perché ci vado spesso, ma perché 14 anni sono tanti, e mi sono immaginato la storia di un uomo che per qualche motivo viveva all'interno di un bagno. Dopotutto non è una cosa tanto, tanto strana, al di là che nessuno di noi ne ha mai sentito parlare, credo. No, insomma, direi decisamente di no. E quindi, insomma, vedendo il bagno della tua azienda, ti è venuto in mente di chiudere un uomo in un bagno per riflettere. Certo, un uomo testardo, un uomo che viene licenziato dal lavoro, così come capiterà a me dopo questo secondo libro, e un uomo che va a dirlo alla moglie per, insomma, e la moglie lo licenzia, quindi lui, insomma, trova poche strade da... Quando prendi da una parte un pugno, dall'altra uno schiaffo e da un'altra ancora una gomitata, hai tipo tre strade. Porgere l'altra guancia e io eviterei, eppure lui. E, oppure hai quella di reagire, oppure hai quella di darti alla fuga, e Roversi si è dato alla fuga. Ecco, Roversi si è dato alla fuga, ma quanto di autobiografico c'è in questo libro, se c'è qualcosa di autobiografico? Allora, finalmente posso dire con estrema certezza che di autobiografico non c'è niente, perché io non mi sono mai chiuso in un bagno e nemmeno ci ho pensato per un po'. Quindi è ovvio però che all'interno del romanzo, come tutti gli scrittori, rubi pezzi di vita tua e anche altrui. Quindi ti sei ispirato, insomma, a persone che conosci per alcuni di questi personaggi? Certamente, per storie che ho sentito per strada oppure per fatti personali. Chiaro che poi le devi anche adattare, ecco. Prima dicevi che questo è un romanzo giallo. In realtà come lo definiresti come genere? Io mi trovo sempre in difficoltà quando devo spiegare quello che il genere a cui appartengo, le cose che scrivo. Diciamo che un genere è un genere per un lettore che si deve trovare in un momento psicologico in cui non vuole deprimersi, ma al contrario. A volte ci sono quegli stati mentali, ho voglia di essere triste, voglia... ecco, non è questo il libro. Parliamo invece di un altro libro, il libro che ti ha fatto conoscere, insomma, al pubblico, L'amore non si dice. Vogliamo ricordare brevemente di che cosa si trattava? L'amore non si dice era una raccolta di lettere di un uomo che amava una donna, ma lei no. Nonostante questo lui le scriveva queste lettere d'amore raccomandate, per essere sicuro, e lei a un certo punto non ce l'ha fatta più, ha detto: senti, non mi devi più scrivere, e soprattutto non mi devi più scrivere d'amore. Allora lui, che era innamorato in un modo religioso, inizia religiosamente a scriverle d'altro, cioè le parla di tutto fuorché d'amore, ma in realtà sono tutte lettere d'amore, quindi... le parla del sudore di Elvis o dei tramonti sulle tangenziali o della storia dei suoi guanti di pelle e del fatto che è un amante del pistacchio. Ci sono legami fra questi due libri? Allora, aspettavo questa domanda al varco perché ancora non me la... perché ieri pomeriggio il mio vicino di casa mi ha detto una cosa molto bella e io volevo dirla subito. E lui mi ha detto: secondo me ci sono legami tra i due, c'è un legame tra i due libri. Io onestamente, che li ho scritti, so che il legame non c'è, però lui li ha visti e i legami che ha visto sono questi. Nell'amore non si dice, il protagonista è un uomo che tra le altre cose mangia un sacco di liquirizie. In Se son rose il protagonista è un uomo che vive in un bagno. E quindi? Niente, questa volta si capisce, a volte no, io eviterei di spiegare il perché in radio. Ah, va bene. Senti, questo titolo, Se son rose, da dove viene? Se son rose viene da una felice, felice intuizione di una mia amica, nonché scrittrice, Grazia Verasani, che ha avuto... l'intuizione di chiamarlo così, perché io volevo un titolo che non... Ovviamente se uno ti dice Se son rose, di che parla? Ma... L'amore non si dice, già lo dice il termine, in teoria non si... L'amore c'è ma non si dice, anche se poi c'è, è un po' una cosa contorta. Se son rose invece potrebbe essere di tutto, a parte un romanzo rosa. Grazie a Massimo Vitali, autore di Se son rose, pubblicato da Fernandel. Vi ricordo che trovate queste e le altre edizioni del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.